Esercizio 2. Ascolta e ripeti le frasi dell'esercizio 1. Mi piace la danza. La nostra amicizia è una certezza. Metto molto zucchero nel caffè. Le bellezze di questa nazione sono molte. Lo zio non è stato mai zitto. Il prezzo di questo attrezzo agricolo è eccessivo. Si deve pronunziare bene la parola menzogna. Questo fortissimo ronzio mi terrorizza. Questa azienda deve essere riorganizzata. Qui tutto è informatizzato e automatizzato. Un bel pranzo, a volte, è il mezzo per fare affari. La Z di zaino è sonora. Il romanzo è pieno di rozzi pettegolezzi. Sta male, ha l'influenza. Sono autorizzato a circolare in auto in questa zona. È un romanziere di successo.